9 in punto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. Il numero per intervenire in diretta è come sempre 800 24 00 24. C'è la nostra pagina Facebook www.facebook.com/9inpuntoradio24. Mi potete scrivere anche su Twitter se volete, Simone Spezia. Buongiorno a Susanna Camusso, segretario generale della CGIL, benvenuta. Buongiorno. Allora, io partirei subito e partirei da questo. In questi giorni, poi naturalmente verremo anche alla prima manifestazione unitaria in 10 anni, ci sarà domani appunto questo 22 giugno con CISL e UIL. Io però vorrei partire da quello che sento in giro in questi giorni. Devo dirle, io sento tantissimi slogan sul lavoro, anche prima delle elezioni e subito dopo ho sentito anche slogan del tipo senza lavoro non c'è crescita. Ora va bene tutto, no? Mettiamo al centro il lavoro e siamo perfettamente d'accordo. Ho l'impressione che si tolga il fuoco e la concentrazione da ciò che il lavoro lo genera, no? Ossia le imprese e la crescita economica. Vorrei sentire la sua opinione su questo, per carità, la mia molto umile, da semplice giornalista e conduttore radiofonico. Si parla molto di lavoro perché se ne è parlato troppo poco per lungo tempo, e quindi ci si è rassegnati a guardare la realtà e quindi al fatto che la disoccupazione continua a crescere, quindi cresce il reddito delle famiglie, quindi si riducono i consumi e quindi si riduce la base produttiva del nostro paese. Quindi in questo senso, se non si riparte dal lavoro, non si determina una nuova stagione di sviluppo e di crescita del nostro paese. Il problema poi sono quali ricette si costruiscono, perché il governo Monti ha agito immaginando che il terreno fosse quello dell'offerta, e quindi con tutti i decreti e con le misure di liberalizzazione, che come noto non ha prodotto dei risultati nel breve periodo e temo non li produca nemmeno nel lungo. Quello che noi diciamo è che invece bisogna lavorare sul terreno della domanda, che il grande problema del nostro paese è quello appunto dell'assenza di consumi per un sistema produttivo che per grande parte è dedicato al mercato interno, ed è per questo che ragioniamo del tema fiscale come tema fondamentale per ridistribuire il reddito di questo paese. La ragione per cui diciamo al ministro del welfare che il tema non è di nuovo quali forme di flessibilità, ma semmai quali investimenti. Mi scusi, ha fatto riferimento lei alla questione di domanda e di offerta. Ho come l'impressione che in quello che si sta delineando in queste ore a livello governativo, poi so che a un certo punto, non sappiamo ancora quando incontrerete il Presidente del Consiglio Letta, da quello che si sta delineando la direzione è più o meno la stessa, nel senso che nel momento nel quale tu vai a detassare il lavoro per i giovani under 30, insomma è chiaro che qualcuno avrà anche interesse ad assumere, però se la produzione non c'è, insomma, da quel punto di vista c'è poco da fare. Insomma, no, c'è un rischio di difetto di efficacia in quello che leggiamo, quantomeno sui giornali in questi giorni. C'è un rischio di difetto di efficacia se si fa solo quello. Forme di incentivazione, come noto, c'erano già, si sono utilizzate a questo fine anche i fondi strutturali per le aree svantaggiate, e spesso abbiamo avuto la sensazione, come dire, che fossero incentivi che funzionavano rispetto a soluzioni che sarebbero già state fatte, ed è esattamente la ragione di questo che abbiamo detto, ma su questo il Ministro ha condiviso, che bisogna incentivare assunzioni stabili e non forme di precarietà. Però non abbiamo nessuna illusione che sia questo da solo un provvedimento che può determinare un'effettiva ripresa dell'occupazione e ripresa dell'economia. Il tema vero sono gli investimenti, è la ragione per cui alle imprese che dicono cuneo fiscale generalizzato noi opponiamo l'idea che invece bisogna ragionare su chi investe ed assume, perché una distribuzione a pioggia di risparmi per le imprese già in altre occasioni non ha determinato un'inversione di tendenza in termini problema ormai strutturale, sono più di 20 anni nel nostro paese che gli investimenti sono pochi, l'innovazione è poca, la ricerca è poca, quindi bisogna rimettere in moto queste come leve. E dall'altro il governo deve investire rispetto ai finanziamenti che in parte ci sono per le opere e guardare molto al territorio che da sempre è il motore dello sviluppo del nostro paese. Sì, in questo senso tra l'altro tra le proposte che porterete per la manifestazione di domani c'è quella della quale abbiamo parlato anche in questa trasmissione molte volte, però vedo che ancora non se ne è cavato un ragno da un buco, insomma la questione dei comuni virtuosi e del vincolo del patto di stabilità. Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, in studio con noi. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Prego, per... Io credo, parto dal concetto di territorio, la sensazione che il nuovo concetto di territorio debba essere quello europeo, al di là del territorio micro e super locale, che d'accordo è sempre fondamentale per rilanciare, anche per rilanciare il tema, un tema strategico come quello del lavoro e dell'occupazione, però se noi prendiamo il concetto del territorio europeo, in effetti forse spostiamo l'area di intervento laddove effettivamente le risorse ci sono. E credo che sia stato questo il senso dell'incontro che c'è stato fra i 4 grandi paesi europei a Roma e che per ora ha sortito però poco più che una photo opportunity e una conferenza stampa. Volevo chiedere appunto a Susanna Camusso che cosa ne pensava del fatto che i grandi paesi europei però perlomeno a parole hanno messo al centro dell'azione di politica economica il tema del lavoro. Penso più o meno lo stesso che penso del dibattito italiano, che c'è un momento in cui bisogna tradurre l'aver individuato una priorità e una leva dalla quale partire in qualche provvedimento che lo renda, come dire, visibile e concreto, che mobiliti anche l'energia del paese in quella direzione. Da questo punto di vista mi pare che l'Europa viva in una condizione per cui si continua ad annunciare ciò che si potrà fare, ma nel frattempo non cambiano le regole e non cambia nessun vincolo, nemmeno in termini di flessibilità. Poi è indubbio che, come dire, la partita che si gioca, guarda, c'è un'avvertenza che in questo momento è esemplare, che è quella della ST. AST è un'azienda che andava bene, che ha un grande mercato, che ha grandi qualità, che ha continuato a investire, che si trova in mezzo al tema cos'è l'antitrust europeo, quello che deve determinare i nani europei, però tutti uno più piccolo dell'altro, oppure dei competitori globali di grandi dimensioni. L'Europa ha scelto i nani, perché è una misura in cui l'antitrust è appunto solo sulla dimensione europea. Allora anche lì come si fa a dire che davvero si rimette al centro il lavoro se non ci si occupa di qual è non la tutela di alcune aziende, di alcuni paesi, ma qual è il modello di competizione europeo? L'AST, giusto per chiarire agli ascoltatori, tra l'altro ne abbiamo parlato anche di questa vicenda, esatto, sì, sono le acciaierie di Terni, ne abbiamo parlato in trasmissione in occasione, lo ricorderete, di quella manifestazione che si è chiusa insomma con le manganellate, come abbiamo raccontato. Allora, tra poco verremo a qualche altro ascoltatore. Le faccio una domanda un po' più generale, perché no, molte sollecitazioni arrivano anche dagli ascoltatori in questo senso. Non le sembra un po' lentino questo governo? Noi abbiamo avuto occasione di osservare che c'erano molti annunci, come se stesse aprendo tanti dossier, e la sensazione è che i dossier si moltiplichino, che non si decida invece sui singoli capitoli. Questa, devo dire, è una sensazione che abbiamo. Credo che ci sia in parte una ragione, cioè che il governo precedente, come spesso ha scritto il Sole 24 Ore, ha lasciato dietro di sé un infinito numero di compiti di traduzione dei tanti decreti fatti in norme, quindi che man mano si scoprono adempimenti, ma dall'altro credo ci siano le incertezze di non aver deciso qual è il punto vero su cui concentrano l'iniziativa. Il dibattito IMU-IVA mi pare esattamente la dimostrazione di questo, di continuare a stare dentro gli echi della campagna elettorale più che dentro l'idea di che cosa bisogna fare per tirar fuori questo paese per quel che il paese può fare da questa situazione. Le sembra così fondamentale lo stop all'aumento dell'IVA? O piuttosto quelle risorse non sarebbe meglio destinarle ad altro? Perché in un paese in cui il tema più rilevante ai fini della produzione e dei servizi è quello della mancanza di consumi e del reddito delle persone, l'IVA diventa anche dal punto di vista dell'impatto psicologico sicuramente una cosa importante. Ciò che non va bene è l'idea che siccome deve intervenire su quello bisogna anche abolire la tassa sulla proprietà della casa. È questa idea che ci sia sempre un conto zero e quindi il reddito del paese rimanga così sperequato come oggi, che non è una scelta di politica economica. Rosario da Roma, buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, no, io dagli studi fatti, voglio dire, penso che tutto debba ripartire dai consumi e dalla, diciamo, capacità dei cittadini di acquistare. Quindi finché non si risolve questo problema, mi sembra che dare incentivi per l'assunzione di giovani quando le aziende chiudono e hanno i magazzini pieni di prodotto invenduto mi sembra molto irreale, cioè non vedo Marchionne riaprire tutte le fabbriche perché la gente possa comprare le macchine. Quindi il reddito, un reddito minimo garantito per i disoccupati, un reddito minimo, pensioni leggermente più decenti, salvare la situazione degli esodati e fa diventare questi soggetti dei consumatori, sia pure modesti, ma che comunque rimuovono l'economia. Se non ripartono i consumi, mi sembra che poi il capitalismo si basi sul consumismo. Se non ripartono i consumi, come fanno a ripartire le aziende? Chiarissimo, Rosario, non è esattamente corretto che il capitalismo si basi sul consumismo, comunque il ragionamento è chiaro. Giorgio, dalla provincia di Monza e Brianza. Buongiorno, Giorgio. Sì, buongiorno. Vorrei dare un piccolo contributo in termini molto pratici del buon senso. Se guardiamo il mondo, da che mondo è mondo, il nuovo lavoro si crea quando c'è nuovi business, nuove scoperte che si applicano nel business. Continuare a occuparsi di percentuali su una macchina che funziona male è inutile. La speranza nascerà dalle nuove invenzioni, dalle nuove tecnologie. Questo solo crea nuovo lavoro. Da sempre, guardi le ferrovie. Guardi i casi più tipici, quando c'è qualcosa di nuovo che dalla scienza viene nella tecnica, si crea lavoro, perché qualcuno riuscirà a guadagnarci e quindi qualcuno lavorerà. Così si perde tempo. Grazie Giorgio. Alessandro della provincia di Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Signor Spezzi. Senti, volevo fare una domanda alla Camuzzo, cioè che più che una domanda è una critica, anche se benevola, insomma. No, perché si dice sempre di queste disuguaglianze in questo paese, ma la prima disuguaglianza è stata portata avanti dal sindacato quando ha mandato la gente in pensione a 50 anni, quelle lavoravano in pubblico impiego, a discapito delle persone che lavoravano nel privato, a scapito delle generazioni future, e infatti ora stiamo pagando anche questo. E poi il sindacato è rimasto alle vecchie lotte di classe, quelle lotte delle patrimoniali, di far pagare i ricchi. E guardi, glielo dice uno che ha lavorato 30 anni in un'azienda e ha partecipato per 10 anni alle RSU aziendali. Ma non avete ancora capito che il mondo è cambiato. E la lotta vera da fare è contro uno Stato che affoga l'impresa. E questo è da capire. Grazie Alessandro, mi sembra tre stimoli interessanti, no segretario? Il reddito minimo garantito, quest'ultima di Alessandro della provincia di Firenze che insomma vi chiama direttamente in causa e chiama direttamente in causa le vostre responsabilità, quelle che ritiene essere le vostre responsabilità. Prego. Partiamo da quest'ultima perché credo che sì. Ogni tanto non ci si ricordi come è fatta la storia, io posso orgogliosamente dire che la CGIL era contraria alle pensioni baby come sono state poi successivamente chiamate, dopodiché ci sono battaglie che si vincono, battaglie che si perdono, quello divenne un sistema che peraltro correggemmo noi stessi con con la riforma del 95, ciò non toglie che però qualcuno nel governo scorso per rimediare a questo ha determinato invece un sistema pensionistico che oggi è uno degli elementi di blocco delle situazioni e che viene vissuto con profonda ingiustizia dalle persone, in particolare da tutte quelle categorie che oggi mettiamo sotto il nome di esodati, che erano licenziati, contributori volontari, persone senza più lavoro che sono trovate con un'improvvisa rottura di un patto che con lo Stato avevano fatto. Poi se il tema vero è quello che tutto il mondo occidentale, noi in particolare ci siamo trovati ad avere a che fare con, per fortuna, una crescita dell'aspettativa di vita delle popolazioni, forse bisognava agire sul terreno della qualità dell'istruzione, dell'allungamento dell'istruzione invece che del taglio, ma questo ci porterebbe molto lontano. Io penso che dire che il problema sia la tassazione che affoga le imprese sia di nuovo un'affermazione di ordine generale che però rischia di assolvere troppe cose. È stato pubblicato recentemente il rapporto sullo Stato sociale, ci sono tutti i dati comparati sul costo del lavoro e si scopre che il costo del lavoro italiano non è così diverso da quello del primo grande competitore che è la Germania. Allora forse il tema è la modalità con cui si tassano le imprese, la somma degli adempimenti, ma il tema è anche dove sono andati i 20 anni di profitti che sono stati fatti dal sistema delle imprese, per una piccola parte in investimenti, per la gran parte si sono spostati sulla rendita finanziaria, sugli immobili. Se noi siamo un paese che ha scarsa produttività e poca innovazione, non è mica perché i lavoratori lavorano troppo poco. Mi scusi Camusso, però non ci sono responsabilità del sindacato anche, insomma, sinceramente, no? Qualcosa gli si attribuisce. Molti messaggi ci arrivano anche sulla pagina Facebook, insomma, ci dicono la stessa cosa che ci ha detto Alessandro alla fine, no? Relata refero, è un sindacato vecchio, un sindacato che non ha saputo affrontare per esempio per tempo la questione dei precari, questo nuovo mondo. Su questo sono d'accordo, l'ho detto in molte occasioni, che non abbiamo immaginato un tradizionale percorso di modifiche legislative, mentre invece il mondo stava intorno cambiando e non si riusciva a rappresentarlo. Però vorrei anche dire che in questa discussione, oltre a individuare le giuste responsabilità, per carità, del sindacato, bisognerebbe anche ragionare se il modello della precarietà alla fine è stato un modello che ha rafforzato il nostro sistema produttivo, o non invece una delle ragioni della sua debolezza e di una qualità del lavoro e dell'innovazione, della creatività che si è progressivamente ridotta. Cioè, io credo che ci sia una stagione in cui il tema è anche tirare un bilancio delle cose che sono successe, esattamente come sul sistema pensionistico è indubbio che abbiamo avuto una storia che ha avuto tanti processi. Penso anche a non aver affrontato, questa è una responsabilità del sindacato, seriamente il tema dei lavori usuranti e quindi aver determinato in realtà quelle che sono delle inuguaglianze nel sistema pensionistico, perché poi agivi sull'età generale invece di guardare a come è fatto il lavoro, tema che ci abbiamo tuttora aperto. Però il nodo è il paese verso dove si è indirizzato. Perché anche l'ascoltatore che diceva sono le invenzioni quelle che mettono in moto il futuro del lavoro. Ma se non si fa ricerca, come si costruiscono le innovazioni? Se l'unico tema che attraversa il dibattito italiano ormai da 20 anni è bisogna abbassare il costo del lavoro, e spesso questo si è tradotto anche in abbassamento delle retribuzioni, e quindi si è impoverito il paese, non si fa innovazione così. Allora, abbiamo una pausa, poi voglio ricominciare da Alberto Orioli e poi naturalmente rimaniamo con Susanna Camusso. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo, Alberto Orioli, per una domanda a Susanna Camusso. Si parlava di confronti di dati tra modelli, il modello italiano, il modello tedesco, si è citato prima la Germania. Una delle cose che colpisce di più è che effettivamente, a parità di una spesa pubblica, diciamo così, destinabile genericamente al tema lavoro, all'interno poi del grande capitolo welfare, la grande differenza tra modello italiano e quello tedesco è che noi spendiamo tutto in sostanzialmente forme di assistenza, di ammortizzatore sociale e quant'altro, di pensioni, mentre i tedeschi riequilibrano e spendono metà e metà anche per le cosiddette politiche attive, cioè per i servizi all'impiego, che sono quelli strategici che consentono di far incontrare domande e offerta di lavoro, mentre da noi praticamente quel tipo di intervento anche di finanza pubblica è ridotto al lumicino. Anche qui probabilmente il sindacato non ha niente da interrogarsi, non c'è stato qualche errore prospettico nel definire quali dovevano essere i grandi obiettivi su cui destinare poi le risorse, gli sforzi per far incontrare domande e offerte di lavoro, e non rischi anche in futuro di non aver colto bene il tema, visto che se ne sta parlando all'interno della riforma Giovannini, ma si potrebbe trovare un giusto mix tra presenza pubblica e presenza privata, visto che sono già molte le presenze di agenzie private di lavoro che gestiscono oggi forme di somministrazione di lavoro, ma fanno anche in parte orientamento. Le aggiungo una cosa alla domanda di Orioli, ulteriore testimonianza di quello che diceva: non a caso un quarto delle risorse del rifinanziamento della cassa integrazione in deroga sono arrivate dalla formazione professionale, che è chiaramente quella che poi serve per ritornare sul mercato del lavoro. Un quarto delle risorse sono arrivate da lì, e devo dire noi abbiamo detto in tutte le salse possibili e immaginabili che ci pareva sbagliato esattamente per la cosa che veniva detta. Noi siamo un paese che sul terreno delle politiche, quelle che vengono chiamate le politiche attive, poi sono orientamento, formazione, riqualificazione, incontro domanda offerta, capacità di leggere i sistemi territoriali di adeguare una qualità di istruzione tecnica a quei sistemi, un tempo infinito che non se ne discute, penso anche al fatto che per esempio si è progressivamente impoverita l'istruzione professionale di qualità nel nostro paese, per immaginando che non fosse il veicolo del lavoro. È stata una delle nostre critiche alla riforma, cosiddetta riforma del mercato del lavoro, che aveva alla fine accantonato questo tema traducendolo in una delega che peraltro è scaduta, e oggi bisogna, come dire, ripartire da zero in un momento in cui ne avremmo molto bisogno. Così come non c'è dubbio che il nostro sistema degli ammortizzatori non funziona, forse non per la stessa ragione che pensa Orioli. Penso che il vero difetto del nostro sistema è che non è un sistema universale, protegge solo una parte del mondo, non protegge in particolare tutto il lavoro precario. Come anche la Germania dimostra, uno strumento di sostegno al reddito è necessario, il problema è se quello è l'unico intervento che si fa. E su questo credo che tutti insieme, compresi noi, abbiamo dedicato troppa attenzione alle regole del mercato del lavoro invece che al funzionamento del mercato del lavoro. Per fare un esempio, la discussione che si sta facendo sugli assetti istituzionali è una discussione che parte sempre dal numero dei livelli invece che dalle competenze, per cui in questo momento le competenze del lavoro per la parte che riguarda il pubblico continuano a essere nell'incertezza se alla fine saranno delle aree metropolitane, saranno delle regioni, saranno di ciò che sostituirà, se qualcosa sostituirà le province, come se fosse sempre un'attività secondaria invece che un'attività fondamentale. So bene che c'è un'idea che è quella di un'ulteriore privatizzazione delle forme di politiche attive. Io non sono così certa che la privatizzazione sia stato un elemento di miglior funzionamento del mercato del lavoro. Quello di cui sono certa è che non si può continuare a parlarne invece di cominciare a prendere il meglio delle esperienze che c'è per farne norma generale per l'insieme del paese. Alessandro D'Alecco, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Io sento la vostra trasmissione tutte le mattine, anche che comunque per la mia giovane età è un po' strano, magari sui 27 anni avete pochi ascoltatori, però io purtroppo ogni volta, che esempio questa mattina la vostra trasmissione, cioè, vedo sempre che comunque c'è un gran parlare, come adesso la signora Camusso, è un gran parlare, sempre proteggere la propria posizione per dire alla fine è colpa degli altri, però alla fine quelli come me con partita IVA che guadagnano 900 euro, IVA compresa, alla fine siamo sempre noi che alla fine siamo qua e continuiamo a guardarci intorno, e a 27 anni io vivo ancora a casa con mia madre, perché io da casa mia non me ne posso andare, e alla fine i problemi non vengono risolti, perché noi alla fine siamo ancora qua, perché alla fine tutte le settimane ci alziamo lunedì e il sabato finiamo di lavorare il pomeriggio. E alla fine lo vedo sempre che ci sono sempre gli stessi problemi vengono scaricati su altri, perché noi avevamo detto che avremmo potuto fare, però non è stato fatto, però alla fine non viene risolto niente. E allora io da settembre me ne andrò via da questo paese, andrò negli Stati Uniti o in Svizzera, che è vicino alla zona di Lecco in cui abito, perché è inutile che stia qua ancora a sentire che la signora Camusso dice che no, però noi avevamo detto, però non avete fatto. Cioè, a noi non interessano le balle del fare, non fare, chi è la colpa, chi è gli altri. La gente della mia età, degli anni 80, dagli 80, è stanca perché non ha un futuro e vive ancora a casa con mamma, ma non per comodità, come pensano i bamboccioni. Mi scusi, non ho capito, Alessandro, ma lei ravvisa una colpa del sindacato in questa situazione? No, io vedo quella del sindacato, che è quella di base, secondo me, ma è un mio pensiero. E perché? Perché comunque ogni volta che vedo i miei amici che lavorano in altre aziende, magari non come me, che hanno la partita IVA, c'è sempre un favoritismo, cioè questo sempre ci riferiamo al sindacato, cioè è tutto un sistema molto troppo articolato per uno che deve andare a lavorare, il sindacato, le preferenze, è tutto un mondo che secondo me in altri paesi non esiste. Grazie Alessandro. Non crede, allora mi scusi se riporto la discussione, le diceva dobbiamo insomma smettere di parlare solamente di regole e parlare di funzionamento del mercato del lavoro, capisco, però mi perdoni se la riporto sulle regole, però insomma alla fin fine quello, il ragionamento di Alessandro è il sindacato atteso a tutelare, è il ragionamento classico se vuole, che fanno anche in molti, no? Il sindacato atteso a tutelare i tutelati, quelli che erano già tutelati, ossia i lavoratori dipendenti, reagendo con forza e con energia a meccanismi di flessibilità in uscita, sostanzialmente facendo sì che restassero fuori dal mercato persone appunto come Alessandro. Critica classica che vi viene rivolta, però insomma mi sento di fargliela, anche perché poi le dico, anche sulla nostra pagina Facebook, via Twitter, molte domande su questo arrivano naturalmente. Ma non c'è dubbio, e individua uno dei nodi sul quale anche noi abbiamo iniziato una riflessione, cioè la cosa che cercavo di dire prima, se tutta l'attenzione è nell'idea che è la regolazione del mercato quella che determina, noi per primi abbiamo seguito il contrasto a quelle leggi e non abbiamo invece guardato come il lavoro precario si andava diffondendo, come si andava anche frantumando il ciclo, quello che viene chiamato il ciclo produttivo delle varie imprese, non siamo riusciti a dare elementi di tenuta contrattuale, di diritto ai lavoratori precari che secondo le varie stime sono intorno ai 4 milioni, quindi che questa sia una responsabilità del sindacato io non ho nessun dubbio, l'abbiamo detto in molte occasioni, come ricostruire una capacità di rappresentanza e delle risposte nella contrattazione invece che nell'inseguimento delle leggi è sicuramente un problema che abbiamo, che riguarda anche la discussione in corso adesso, perché se vogliamo parlare di quelli che alla fine sembrano essere dei riflessi condizionati, la cosa è del tutto reciproca, nel senso che da una parte del sistema imprenditoriale c'è lo stesso esatto riflesso, ogni volta che c'è un problema da affrontare l'unica risposta che sanno dare è togliamo diritti e questo metterà in moto chissà quale meraviglioso mercato del lavoro. Siamo a 10 anni dalle prime leggi e mi pare che anche qui possiamo tirare un bilancio che forse non è che ha sbagliato solo il sindacato, si è proprio sbagliato a trovare quella strada e bisogna trovarne un'altra. un'altra che anche investire sulla qualità dei lavoratori, sulle loro capacità, sulla formazione, appunto su strumenti attivi invece che puramente sulle regole. Se poi l'idea è sempre quella che invece se ci fosse il diritto di licenziare, chissà quale splendido mercato ci sarebbe, io inviterei a un attimo di calma da questo punto di vista, perché se quel ragazzo che prima parlava dice a 27 anni io me ne andrò perché non c'ha nessuna certezza del proprio reddito, della propria condizione futura, e quindi forse il tema non è continuare a moltiplicare le incertezze, il tema è come si ricostruisce un sistema che permetta, come ha permesso alla mia generazione, di immaginare il proprio futuro e la propria famiglia in una condizione positiva. Aggiungerei che molto si dice, come dire, su avete fatto o non avete fatto, questo è anche un bel livello di confusione istituzionale di questo paese, in cui ci si immagina che ogni soggetto abbia poi poteri decisionali, invece c'è un tema che riguarda il paese, il funzionamento delle sue istituzioni. Ma a parte, come dire, questo aspetto, la discussione che non si fa e che invece bisognerebbe fare è come ci si immagina che le persone affrontino il loro futuro nella totale incertezza. Il sistema che viene sempre chiamato in causa, che è quello tedesco, è un sistema fatto di certezze, non di incertezze, compreso che il sindacato ha un diritto di veto sui licenziamenti, che forse è qualcosa di addirittura più vincolante della nostra normativa. 9 in punto. Allora, mancano pochi minuti alla chiusura. Susanna Camusso rimarrà ancora con noi per altri 5 minuti. Vogliamo parlare adesso anche naturalmente della manifestazione che si svolgerà domani, come si diceva, la prima unitaria con CISL e UIL da 10 anni a questa parte. Tra le richieste sono 10 richieste, il finanziamento degli ammortizzatori in deroga per il 2013, la salvaguardia degli esodati, poi le politiche anticicliche con la possibilità, si diceva in apertura, per i comuni di sforare dal patto di stabilità. Io insomma spero che finalmente si ragioni un po' più seriamente su questo punto, che abbiamo affrontato anche a 9 in punto e sul quale torneremo. C'era in merito a tutto questo, perché si parla anche di riduzione delle tasse sul lavoro, una domanda di Alberto Orioli per Susanna Camusso. Sì, appunto, domani da quel palco che ritorna unitario dopo tanto tempo, se la sente di lanciare alle imprese la grande idea di un patto tra produttori, diciamo così, per abbattere il cuneo fiscale, cioè in modo da rendere più alto il salario netto e di rendere più basso il costo del lavoro per l'impresa? Guardi, noi abbiamo in tante occasioni detto che abbiamo bisogno che si ricostruiscano degli obiettivi comuni tra il sistema delle imprese e i lavoratori, perché indubbiamente ci sono degli obiettivi comuni. E devo dire che invece abbiamo molte perplessità, ne discutevamo anche ieri sera con Bonanni Angeletti sull'idea che sia il cuneo fiscale lo strumento. Per una ragione, con il governo Prodi fu fatto un intervento sul cuneo fiscale che valeva credo un po' più di 5 miliardi, se noi tiriamo le fila di dove sono andate quelle risorse non sono andate né in investimenti né in occupazione. Allora noi vorremmo lanciare un grande patto che dice consistenti forme anche in termini di credito d'imposta, quindi non semplicemente di incentivi temporanei, ma per investimenti, ricerca, assunzioni, cioè finalizziamo, perché abbiamo troppe poche risorse per pensare che si possano fare degli interventi a pioggia che poi si traducono nel fatto che magari vanno a rendita piuttosto che a capitali esteri, perché bisogna sempre poi parlare del paese concreto in cui siamo. Allora, noi lo intendiamo in quel modo e vorrei anche dire, lo intenderemo anche, so che, come dire, hanno fatto un po' di rumore queste dichiarazioni, ma se ci sono grandi imprese in Italia che in questo momento stanno andando bene, ma dedicano gli utili e le loro risorse a delocalizzare, che patto per i produttori faccio? Se non c'è, come dire, un'idea di scommettere sul paese e di rimanere in questo paese. Chiaramente si sta riferendo a Fiat. Quindi, ultima domanda, poi la salutiamo per capire e per approfondire. Quindi lei non partirebbe dal cuneo fiscale o contributivo, partirebbe appunto da crediti d'imposta per investimenti e assunzioni? Sì, e ricerca. Sì, partirei da ciò che mi rappresenta una prospettiva e non una distribuzione generale, e la metterei insieme a un abbassamento serio della tassazione sul lavoro dipendente e sulle pensioni, cioè farei un'operazione da un lato sugli investimenti, dall'altro sulla domanda. Grazie Susanna Camusso per essere stata con noi e buona giornata. Grazie. Sentiamo qualche altro ascoltatore in chiusura. Diego dalla provincia della Spezia, buongiorno. Buongiorno, salve, buongiorno. Ascolti, io volevo porre questa, diciamo, questa situazione in essere, che mi sembra che viene sempre, diciamo, un po' messa in secondo piano. Il tessuto economico italiano è formato principalmente dalla microimpresa, poi è chiaro che ci sono delle grandi realtà come Fiat, realtà industriali molto, molto grandi che danno lavoro a tante famiglie, però diciamo che il vero tessuto imprenditoriale italiano è dato dalla microimpresa. Io sono socio di un'azienda, siamo 4 soci e 8 dipendenti alla Spezia, e stiamo faticando molto perché siamo stretti nella morsa fiscale, tutti i giorni, ogni giorno arriva qualche avviso, un qualcosa da pagare. Credo che gli ammortizzatori sociali debbano essere distribuiti in un modo molto più equo, non necessariamente dati solo ed esclusivamente alle grandi imprese che hanno anche grandi strutture, grandi capitali da poter gestire. Noi investiamo quotidianamente nella ricerca, nello sviluppo e nuove tecnologie, lavoriamo proprio nel campo dell'informatica, quindi è d'obbligo per noi stare dietro alle nuove tecnologie, però diciamo che anche con tutti gli sforzi che stiamo facendo non abbiamo avuto la possibilità di usufruire degli ammortizzatori sociali per salvare magari dei posti di lavoro, e allo stesso tempo siamo tutti i giorni a lottare per produrre, non per cercare di crescere ma per salvare la situazione. Io credo che se l'Italia non cambia registro e si mette nell'idea che la microimpresa comunque è una parte fondamentale, queste andranno a chiudere tutti i giorni, sempre di più, e sempre più persone rimarranno a casa. Poi sentivo proprio, diciamo, l'intervento di prima dell'altro ascoltatore che diceva che bisogna produrre più ricchezza per il cittadino, perché se il cittadino ha ricchezza può investire spendendo, comprando beni e servizi, e così l'economia si muove, non necessariamente solo con le grandi leve ma con le piccole leve. Anche con le piccole leve. Grazie Diego, sentiamo Massimiliano dalla provincia di Roma. Buongiorno a lei. Breve, salve, breve Massimiliano. Allora, sono dispiaciuto che la dottoressa Camusso purtroppo non sia più con noi, perché era molto interessante quello che stava dicendo rispetto all'abbassamento del cuneo fiscale e soprattutto anche rispetto al fatto di rilanciare l'economia da quel punto. Io posso portare l'esempio della Germania, sono coniugato con una hostess che vive a Francoforte, mio figlio è nato lì e sono 8 anni che è lì. Ma soprattutto, ripeto, la cosa fondamentale che è importante dire è che in Germania lo stipendio medio, non so, di chi fa lo stesso mio lavoro è di circa 800 euro più alto, e ovviamente il costo delle case è il 30% rispetto a un costo della casa a Roma, ma ed è ancora più profonda questa riflessione, i costi per l'energia sono il quadruplo, il quintuplo dei nostri, non è comprensibile che stiano meglio di noi, a meno che non c'è appunto una base imponibile più bassa sul quale calcolare lo stipendio. A questo punto ovviamente lo stipendio di un dipendente della posta è il 60% più di un dipendente dello stipendio della posta in Italia. Lei capisce che chiaramente questo crea le basi per una economia che funziona, sono che franco, produce. Sono franco con lei, le regole fiscali tedesche diciamo sull'imposizione sugli stipendi non le conosco. Per chiudere, Alberto Rioli, magari ecco su quello che ci diceva Diego l'ascoltatore. Diciamo, forse bisogna identificare, ma mi pare che la trasmissione ci abbia aiutato a identificare quali sono i due problemi che abbiamo di fronte e sui quali devono agire le leve della politica economica. Da una parte c'è una crisi di domanda, quindi bisogna trovare il modo di rendere gli stipendi più alti e di creare forme di appunto remunerazione che vadano ai consumi. E quindi torno sul discorso del cuneo, la cosa migliore sarebbe di abbattere la tassazione soprattutto sulle fasce IRPEF più basse. L'altra è un problema di tipologia della crescita, cioè quindi gli investimenti in ricerca. Giustamente diceva l'ascoltatore che la crescita economica migliore viene quando la scienza trasferisce alla tecnologia le novità che diventano fattori industriali. Oggi c'è troppa tecnologia che trasferisce tecnologie e c'è poca scienza. Forse riflettiamo poco su questo, ma può essere una prossima puntata. Grazie, grazie Alberto Rioli, Filippo Reggi, regia Alessandro Marco Tulli, in redazione a tutti voi per l'ascolto. Lunedì, per tutta la settimana prossima non ci sono io, ci sarà Gianfranco Fabi, e quindi ci risentiamo il lunedì della settimana successiva. Ricordati! Mancano 10 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.